Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Abbiamo un impegno solenne e definitivo che io credo di poter assumere di fronte a tutto il popolo italiano a nome di tutti i miei compagni di partito, quello di seguire la strada che egli ha cominciato a tracciare. Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! La nostra flessibilità ha salvato fin qui più che il nostro potere la democrazia italiana. Sono morti, non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere. Affiancamento, ugualmente fraterno ed affettuoso, senza ombre, senza frecce, senza dolce veleno, tra la democrazia cristiana, i sindacati liberi, i coltivatori diretti, i dirigenti d'azienda. È chiaro che questa è una mattina in cui tutti hanno avuto una overdose di commenti, di riflessioni, di attenzione, di propositi riguardo alla politica e soprattutto riguardo agli assetti della politica alla luce di questo risultato elettorale. Questa mattina mi piacerebbe però, al di là di quelle che saranno valutazioni, propositi, le possibilità di comporre una maggioranza efficace, sapere dalla pancia delle persone che hanno votato, che non hanno votato, che hanno votato controvoglia, che hanno votato convinti di aver fatto la cosa migliore, che hanno votato tanto per votare, che hanno votato mossi da un senso profondo, radicale e giustificabile di rivolta, che hanno votato perché hanno votato sempre, perché hanno pensato che nella tradizione sia la miglior risposta, nella continuità sia la miglior risposta. Cosa pensano stamattina che sia cambiato in questo paese? Ma io non credo che il maggior segno di cambiamento sia dato semplicemente da quello che vedete in televisione. La televisione sta registrando semplicemente un momento di sconcerto, un momento per cui è cambiato completamente l'aspetto fisiologico, radicale, costitutivo della classe politica. Non dico c'è stata una rivoluzione, o perlomeno ancora non abbiamo i segni della rivoluzione, i sintomi della rivoluzione. Però qualcosa è cambiato. Io non è che voglio fare il maramaldismo questa mattina di scorrere l'elenco dei trombati, di quelli che sono usciti o di quelli che sono rimasti fortificati. Ieri mi espressi molto brevemente nello spazio che avevo al posto di questa trasmissione riguardo quella che era la mia idea rispetto alla scena politica generale. Non mi sono mai molto interessato, non è il mio campo precipuo, però mi sono reso conto in questo momento in cui apparentemente sembra che in realtà non ci siano grandi e potenti vincitori, se non qualcosa di completamente nuovo, che è il movimento di Grillo, che aveva tutto il percorso della novità. Prima l'essere osteggiato, poi l'essere comunque considerato come qualcosa di non strutturato, qualcosa senza radici storiche, qualcosa senza una sua nobiltà fisiologica e costitutiva tale e necessaria da permettere che lui possa tranquillamente riuscire a collocarsi a fianco di coloro che per professione, per elezione, per investitura divina, per vocazione, per botta di culo che nessuno avrebbe mai detto che loro potessero mai meritarsi, aveva tenuto radicalmente e concretamente fermo il punto nei posti privilegiati della politica. Detto questo, mi sembrava che tutto sommato, almeno alla luce di ieri, avevamo l'Italia divisa in tre grossi filoni, tradizionalmente un filone per così dire conservatore, che era il filone che tutto sommato ieri manteneva l'orgoglio della sua tenuta, che era il partito di centrodestra, il partito della libertà, che diceva ce l'abbiamo fatta, siamo ancora tutti, siamo a cavallo, grandi sorrisi, però un partito che comunque è legato a una figura carismatica di un personaggio che è fortemente appesantito e segnato dalla consunzione di riproporre sempre se stesso, che indubbiamente ha fatto un grande salto in avanti, è riuscito a riconquistare quello che è il suo elettorato, conoscendo bene i punti deboli e i punti in comune che aveva col suo elettorato, e ha riportato quello, diciamo, che è il suo schieramento in una condizione di privilegio inaspettato. Poi abbiamo la cosiddetta ala progressista, che sì, bene o male ha conquistato una risicata maggioranza, ma è piena di macerazioni, di autodafè, di riflessioni, di mortificazioni al suo interno. Forse hanno puntato sul cavallo sbagliato, forse era meglio puntare sul giovane Puledro piuttosto che sul bolso Stallone, che ormai segnava il segno del passato. Beh, comunque sia, adesso faranno i loro conti. E poi c'è quanto c'è di nuovo, che è indefinibile, indecifrabile, irraccontabile. Ci sarà la corsa naturalmente di saltare sul carro del vincitore. Da oggi molti saranno quelli che si identificheranno nella novità, nel primo partito in Italia, che è quello appunto il partito a 5 Stelle. E in tutto questo voi come la pensate? Scusatemi la esagerata e ampia premessa, però dovevo dare il punto rispetto a quello che volevo dire. Edoardo Novelli, buongiorno. Edoardo Novelli è un ospite ricorrente e gradito nel nostro programma, insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3, è membro del comitato editoriale della rivista Comunicazione Politica, ha scritto vari libri, fra cui La Turbo Politica, 60 anni di comunicazione politica e scena pubblica in Italia, Lezioni di propaganda, La voce dei protagonisti, da Aristotele a Malcolm X, edito da Mondadori. Novelli, questa mattina possiamo fare questo tipo di riflessione? In realtà è cambiato qualcosa nella scena politica, nell'antropologia della politica italiana, al di là di quello che poi avverrà: governo velocissimo, governo caduco, governo transeunte, maggioranza attraverso compromessi, ma l'allucinazione che l'italiano medio ha dell'uomo politico, cioè come lo allucina, è notevolmente cambiata secondo te questa mattina? Sicuramente, come si dice in termine tecnico, il personale politico che i 5 Stelle porteranno dentro le stanze, dentro il palazzo della politica, è completamente diverso da un punto di vista anagrafico. Già ci sono sui giornali di oggi il calcolo dell'età media, da un punto di vista biografico, da un punto di vista anche professionale. Diciamo che il profilo dell'uomo politico era tradizionale, era o uomo di apparato, oppure le professioni erano spesso quelle, appunto, molti erano gli avvocati, c'erano in alcuni cioè molti casi... non facevano una mazza nella vita, facevano solo i politici, diciamo la verità. Sì, la maggior parte faceva i politici, buona parte faceva i politici, però tra le altre classiche professioni c'era appunto quella di avvocato, c'erano alcuni medici, insomma erano giornalisti, tanti giornalisti. Alcuni giornalisti, diciamo professioni di tipo prestigioso. Cioè avevano preso il tesserino del giornale politico in gioventù, erano rimasti iscritti all'ordine tutta la vita. Esatto. Questo tipo di quel punto personale politico, la nuova classe politica che arriva portata dentro da Grillo, si configura in maniera completamente diversa, sia da un punto di vista anagrafico, sia da un punto di vista biografico. Abbiamo alcuni disoccupati, abbiamo insegnanti, abbiamo gente che si occupa di agricolture biologiche, insomma sembra far parte un po' di una nuova società, di un nuovo sembra sicuramente più rispondente a quella che poi è probabilmente la composizione reale del paese. C'era colui che era andato a lavorare in Portogallo, che poi è tornato, insomma sicuramente c'è un cambiamento profondo. Bisogna vedere quanto questo è una fiammata oppure diventerà un elemento che segnerà un solco netto, diciamo uno spartiacque nella storia della politica, anche del politico italiano. Ma tu ci credi in questa contaminazione? Io immagino quando si costituiranno le aule del Parlamento, il primo giorno l'entrata, io mi immagino già tutti i colleghi pronti a vedere i peones, questa volta sono molto diversi dal peone classico. Il peone classico era, diciamo, il provinciale che ce l'aveva fatta, si era spinto avanti con il vestito nuovo, la grisaglia appena fatta dal sarto di paese, le scarpe nuove che scricchiolavano, i capelli appena fatti dal barbiere, entra impacciato, chiede ai commessi dove sedersi, lo prendono tutti in giro, c'è una sorta di nonnismo per i vecchi marpioni che stanno lì da anni, lo vedono come arranca, le prime cose che fa subito va alla buvette, si consuma il piacere e la lussuria sedersi in quel barettino dove non costa nulla, va a mangiare dove costa la spigola 2 euro e via dicendo. Insomma, questo era l'iter del peone. Questi cosa faranno secondo te? Questo sicuramente ci sarà una grande attenzione da parte dei tuoi colleghi da questo punto di vista. L'impressione è che è un corpo estraneo, cioè non entra però un individuo, non entra un peone, due peoni, Cioè, viene in mente Federica Daga che faceva la sua campagna elettorale sull'aloe anticancerogena, sull'acqua pubblica, sulle coppette mestruali ecologiche che mettevano le signore. Cioè, cosa farà quando entrerà in Parlamento? Il gioco di vedere il nuovo che arriva e si inserisce c'è sempre stato. Io mi ricordo l'attenzione e anche un po' il voyeurismo quando nell'87 entrò in Parlamento Cicciolina, che era un corpo nel vero senso Ma quella parola, era una, adesso sono 170, esatto, mi pare. E tutti se la ricordano in un lunghissimo vestito verde di raso, che è la prima seduta del Parlamento, con la sua crocchietta di capelli biondi, ed era assolutamente un elemento distonico all'interno di quelle grisaglie. Poi c'è stato, ricordiamo, un'altra invasione, l'abbiamo già avuta, di un altro corpo estraneo, che erano i leghisti, la calata dei barbari con gli elmi, con le corna. Che è l'antitesi rispetto a questi. Questi sono sì, graziosi, ben educati, puliti e tranquilli, sorridenti. Forse non lo sappiamo ancora, francamente, se sono graziosi, ben educati, puliti e sorridenti. Hai qualche sospetto? No, li abbiamo visti ancora poco. C'è un grande allora, fermati un secondo, un secondo, Novelli. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Cosenza è responsabile di blogmeter.it, che è un servizio di ascolto di social media, valuta mensilmente la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici e politici. Tu forse questi sconosciuti 170, mi pare, li conosci meglio degli altri perché l'hai visto in azione, quello che è il loro humus preferenziale. Già si parla che voteranno attraverso il web, già si immagina forme di partecipazione diverse anche per i parlamentari. Puoi dare un profilo, tracciare un profilo del grillino medio, anche se il termine è un po' odioso, ma vedrai che cambierà nel tempo. Sì, è un po' difficile in realtà, però guardando quello che scrivono sulla bacheca anche della pagina ufficiale di Beppe Grillo, sono delle persone molto smaliziate. Diciamo, la sera della vittoria il loro server era saltato, avevano sì, macchine non sufficienti a reggere il grande traffico, c'è stato un momento in cui non si vedeva più. Questo sì, c'è da dire che fanno grande uso dell'ironia, sono fuori dagli schemi. La pagina del Movimento 5 Stelle non è paragonabile a nessuna delle pagine dei partiti politici ufficiali, è molto, molto ironica, antisistema, si vede subito. Quindi probabilmente loro porteranno questo tipo di atteggiamento e di irrisione nei confronti della politica anche nel Parlamento. Poi bisogna vedere come questo si concilia con l'attività quotidiana parlamentare fattiva. Dal punto di vista proprio quantitativo, cosa sta accadendo in rete dopo la vittoria, cioè il grande exploit del Movimento 5 Stelle? Beh, vorrei innanzitutto dire che in realtà era anche visibile in rete il segnale di questo grande exploit. Noi con Blogmeter abbiamo analizzato addirittura le intenzioni di voto esplicitamente dichiarate in rete le due settimane precedenti poi all'apertura delle urne. Di fatto quello che abbiamo visto era proprio questa enorme cavalcata del Movimento 5 Stelle, secondo Bersani, terzo il PDL. Quindi c'erano i segnali anche manifestati chiaramente, si trattava soltanto di andarli a cogliere. Peccato. Tu dici che molti... in rete con Blogmeter siete riusciti, diciamo, a anticipare quello che tanti osservatori non sono riusciti a cogliere con le loro anticipazioni? Sì, perché molti osservatori si sono fermati a guardare le menzioni su Twitter. Twitter sappiamo però benissimo che è una nicchia di 3 milioni e mezzo di italiani, se va bene, che non rappresenta assolutamente quello che poi è. Io lo racconterei a tanti colleghi che hanno questa sorta di sindrome di Stendhal di fronte a Twitter. Twitter è un gioco da fighetti, diciamo la verità, ancora. È autoreferenziale, esiste una classe di giornalisti che si gigioneggia a scambiarsi tweet e penso che la realtà sia quella. Il mondo che si muove in rete si muove anche in altri luoghi. Assolutamente, le menzioni su Twitter avrebbero dato vincente Monti, Bersani di gran lunga e Giannino. Grazie, perché i più grandi twittatori probabilmente sostenevano quel tipo di messaggio, esatto. Quello è il problema. Esatto, siamo in una nicchia, mentre il web è un territorio molto composito e sfaccettato. Alessandro Lanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alessandro Lanni è un giornalista, autore di Enigma Grillo, è un ebook che è uscito da poche settimane, fulminante, caporedattore di Reset.it, scrive sul quotidiano Europa, è docente di giornalismo politico, è stato docente alla Sapienza, autore di Avanti Popoli e un'infinità di libri. Lanni, questa mattina il tuo ebook naturalmente sarà la Bibbia e tutti quelli che vorranno essere al passo coi tempi. Puoi aiutarci anche tu a tracciare questo passaggio antropologico, nella catena evolutiva dell'uomo politico italiano, abbiamo sentito la copertina, dalle grisaglie profumate di colonia dei democristiani siamo arrivati alle felpe, non so bene esattamente quale sarà la divisa del grillino medio, però siamo arrivati a qualcosa di diverso. Sicuramente qualcosa di diverso e qualcosa di difficilmente etichettabile. Se diamo per appunto assodati che circa 9 milioni di italiani, poco meno, hanno votato la lista, le liste del Movimento 5 Stelle, questo vuol dire che ci sono tante cose dentro, evidentemente. Stamattina sul giornale, sul Sole 24 Ore, Dalimonte fotografava bene la differente, quasi opposta situazione che esiste in due, diciamo, nuove roccaforti del Movimento 5 Stelle, che sono Torino e Palermo. Da una parte città industriale storicamente di sinistra, e nella sinistra, e molta parte della sinistra, là Torino ha pescato il Movimento 5 Stelle, e dall'altra parte la capitale del sud, borbonica, diciamo tendenzialmente orientata a destra, dove anche lì ha pescato molto il Movimento 5 Stelle. Ecco, quindi una prima fotografia è questa, ci sono molte cose dentro. E a te cosa ti viene da dire a questo punto? Che non esiste una categoria del grillino, in realtà i grillini hanno raccolto varie e trasversali categorie umane, delle forze più reattive del nostro paese, che hanno deciso, tiriamoci sulle maniche e mettiamoci anche noi in politica, visto che se no altrimenti non cambia la situazione. Questa può essere la lettura? Sicuramente sì. Una cosa che io direi e che mi sembra importante è che esiste una fascia che è rappresentata dal punto di vista generazionale dai più giovani, cioè dai 25enni ma anche trentenni, e io direi a questo punto anche under 40, che si è vista per la prima volta, è dura dirla ma è così, per la prima volta rappresentata in maniera positiva, diciamo propositiva, positiva, dinamica da una formazione politica. Ecco, quelli che vengono detti appunto formati, educati ed esclusi al tempo stesso. Ecco, gli educati ed esclusi in questo momento hanno votato Beppe Grillo, direi. Ecco, riusciranno adesso i neoparlamentari grillini a avere una loro unità, una loro coesione? Perché adesso saranno naturalmente presi di mira da tutti, gli faranno una corte spietata, sono un po' l'ago della bilancia, quindi figuriamoci, ci sarà la caccia al grillino spietata, appassionata, da una parte ci sarà sotterranea e melifera, dall'altra parte sarà aperta. Riusciranno in un movimento che è così singolarmente costituito, sembra quasi che esista una sorta di, poi c'è anche l'aspetto leggendario, una sorta di aspetto settario con questi grandi guru, dai capelli lunghi, bianchi, grigi, silenziosi, che non parlano mai, oppure Grillo stesso, che non è un parlamentare ma continuerà a avere una sorta di leadership ideologica di questo partito. Saranno una setta, un ordine, una specie di classe dei filosofi platonica, oppure andando allo sbaraglio e sarà ognuno per sé, Dio per tutti? Guarda, io credo che innanzitutto si dovrà vedere il contesto politico come evolverà, nel senso che in questo momento hanno evidentemente il coltello dalla parte del manico, Grillo non ha troppo interesse, io credo, dopo un successo così grande, forse anche inaspettato, ad andare a trattare, a sedersi a un tavolo con Bersani in questo momento, insomma. Certo, però se non lo fa, non fanno un passo avanti? Non è detto, nel senso che magari facendolo si fa anche un passo indietro dal punto di vista del consenso. Tutti quelli che hanno visto, che gridavano in Piazza Duomo tutti a casa, magari vedono una piccola compromissione, non lo so. Certo, si tratterebbe, come dire, di una presa di responsabilità in più. Troveranno Alfano, Rosi Bindi, dovranno parlare con queste persone qua, bene o male, o no? Cioè, quelle certamente, voglio dire, ci saranno e bisognerà farci conti. Io la Russa, dovranno chiacchierare con tutti, averci a far con tutti, e non potranno fare come hanno fatto i leghisti a suo tempo, che sbandieravano i cappi e le forche. Dovranno trovare una via di compromesso. Fermiamoci un secondo. Simone, sentiamo qualche ascoltatore. Simone, buongiorno. Allora, no, io volevo fare una riflessione di carattere molto generale, no, su quello che secondo me è stata l'evoluzione o involuzione, insomma, della politica. Questo lo lascio dire a voi, nel senso che secondo me si è passati. Guarda, ne sappiamo, penso che ne sappiamo quanto te, anche i più grandi osservatori oggi si trovano qualcosa che non hanno nella loro memoria storica o accademica, quindi osserviamo. Esatto. E guardiamo. Immagino. Io penso che si è passati da una politica fatta dai grandi apparati, con alle spalle grandi pensatori, filosofie con un modello di società ben studiato, storicamente pensato, no? Si è passato invece quindi dai partiti che guidavano così i popoli, no? Con le loro filosofie e modelli, si è passato ai popoli che hanno cominciato a premere e a portare con sé invece i partiti, a guidare loro i partiti. Sì, questa è una visione molto ottimistica. Sì, e adesso siamo in una terza fase dove il popolo, attenzione, io non sto dando giudizi di merito, sì, no, nessuno lo fa questa mattina, ecco, osserviamo. Io sto vedendo che adesso addirittura il popolo sta entrando nelle stanze del palazzo, c'è una specie di rivoluzione, di assalto alla politica, da parte di una sorta di autodeterminazione, sì, che il popolo non c'entra ha. Coi forconi in mano, ma c'entra attraverso il voto, questa è una, sì, cosa singolare. Sì, questo, io vedo questo tipo di trasformazione, ho questa idea, dove appunto alle grandi filosofie si è sostituito una sorta di filosofia popolare. Ma lei tutte queste grandi filosofie, scusi, io parlo di Marx, Kant, cioè sì, ma ormai non mi sembra che negli ultimi decenni non esisteva più filosofia possibile, se esatto, non quella del compromesso, esatto, quotidiano e del mantenere una posizione di privilegio, ma chi mai ma più, infatti questo spiega esattamente, secondo me, non c'era più sinistra, non c'era più destra, diciamoci, esatto, la verità, esatto, e questo spiega questo cambiamento repentino che poi è avvenuto negli ultimi anni. Francesco, velocemente, Francesco, grazie Simone, Francesco, velocemente, poi passiamo la linea alla borsa. Francesco? Sì, volevo soltanto testimoniare una sorta di malessere che mi ha sempre preso dopo ogni tornata elettorale, sin da quando ho iniziato a votare, che è l'esempio della Democrazia Cristiana, diciamo. E adesso veramente la stessa cosa, c'è, cioè, un malessere a cui sono quasi sicuro che seguirà la delusione e una grande preoccupazione, perché al di là, diciamo, della grande novità... Lei già è pessimista, già pensa che andrà male, sarà deluso. Ma spiego perché, molto velocemente, perché diciamo, quello che mi preoccupa molto è il fatto che, diciamo, alla fine ci sia un partito che è il primo partito in Italia, che ha portato dentro una marea di deputati e senatori, i quali però non parlano direttamente, nel senso che comunque hanno un pensatore alle spalle il quale parla a nome di tutti, anche se è fuori dal Parlamento. È quello che dicevo lei prima, lei teme questo aspetto settario, ma chissà se continuerà così anche dopo. Adesso che sono lì hanno una loro autonomia, un loro diritto, una loro esistenza, una loro dignità, non sono più persone che stanno lì e aspettano che gli dica il capo cosa devono fare. Sono stati eletti, finché durerà la legislatura staranno al loro posto e potranno fare ciò che vogliono. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, questa mattina, mentre tutti si occupano di capire, di cogliere quali sono le alleanze, come verranno costituite i gruppi, come si reggerà la maggioranza, se si reggerà, chi ha vinto, chi ha perso, chi è stato rombato, chi oggi è sugli scudi, chi invece è nel fango, noi cerchiamo di cogliere un tratto antropologico di come cambia la classe politica in Italia. Come cambia realmente è molto difficile saperlo, perché è una scommessa. Ben poco se ne sa, ben poco si è visto, è qualcosa di nuovo, qualcosa di indefinibile, ancora di indecifrabile, colmo e ricoperto da un'infinità di pregiudizi, ma il pregiudizio può confermarsi o può essere smentito semplicemente quando la vedremo all'azione. Ma come la sente di pancia l'elettorato italiano, come la sentono gli italiani? Questo cerchiamo di capire questa mattina. Rosanna, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti. Ho telefonato perché ho sentito il suo ospite che diceva che probabilmente molto dell'elettorato di Beppe Grillo è una fascia giovanile, intorno ai 30 anni, quindi studenti forse ancora. E invece io ne ho quasi 42 e ho votato Beppe Grillo e moltissimi anche miei amici, colleghi, quindi della mia età. Beh, perfettamente in media. Lei ha votato assieme ai giovanissimi al primo voto, quindi la media è quella. Un ventenne e una quarantenne fanno la media, appunto, più o meno i 30 anni. E tra l'altro volevo sottolineare che comunque sono persone anche, cioè io come i miei colleghi siamo tutti laureati, quindi persone anche che veramente vogliono il cambiamento e hanno seguito con passione questo movimento. Tra l'altro volevo far notare che lui non ha imbrattato le città come fanno tutti gli altri, come hanno fatto. Quando dice lui, chi significa lui? Chi è lui? Beppe Grillo, perché dire lui in questa campagna elettorale lui era lui, ha parlato solo lui. Ma lui, guardi, quando già dice lui di una persona, ha un nome, si chiama Beppe Grillo. Lui era lui. Ne voglio dire che è obiettivamente è una persona che ha un grande, grande carisma, è veramente un leader. Adesso questo non ci piove, questo non ci non piove. Non imbrattando le città, non intervenendo nelle televisioni, è riuscito comunque a avere un risultato del genere. Gli vanno riconosciuti comunque dei grandi meriti. Un grande merito, lui ha capito quello che da tempo in realtà ne eravamo tutti convinti, ma nessuno ne ha avuto la prova concreta. Che il sistema integrato dei media, così come noi lo conosciamo, in realtà rispecchia una parte putrescente dell'umanità, putrescente nel senso avanzata in stato d'età, sulla via del declino finale, nello stato cateterico, e pensavamo che in realtà i salottini televisivi, le grandi paginone dei giornali, il Twitter dei grandi giornalisti rappresentasse il paese. No, il paese, non grazie a Dio, ma non perché il paese è buono e bello, perché c'è un avvicendamento generazionale. Perché nascono persone nuove, crescono, arrivano all'età della ragione. Noi siamo ancora abbiamo un sistema di racconto del nostro paese, soprattutto la televisione, ma adesso non voglio darmi meriti, ma sono 20 anni che dico che noi in realtà guardiamo un cadavere pensando che sia la realtà. La televisione rappresenta una fetta del paese che c'è, sì, c'è, ma popolerà sempre di più gli ospizi, ma di cui anch'io probabilmente presto farò parte, ma fa parte dell'ordine naturale delle cose. È ora che la parte diversa del paese trovi gli strumenti di rappresentazione. E probabilmente adesso, occupando i sacri scranni del Parlamento italiano, avranno modo di far vedere cosa sono. Potranno essere meglio, peggio, uguali, identici. Diventeranno tutti come Gasparri fra qualche anno, può essere. Non dico di no, non sono ottimista in assoluto, ma perlomeno esce fuori qualcosa rispetto alle pieghe impermeabili del sistema di racconto della realtà. Non so se questo che lei voleva dire. Sì, la penso esattamente così, che ormai la televisione e le vecchie testate giornalistiche hanno veramente stancato, ormai sono per una sì, però d'età finché molto non se ne faranno avanti. Delle nuove ci sono quelle prima però poi le persone scelgono, per fortuna molti sanno scegliere, quindi magari ascoltano la radio, usano anche questo mi fa molto piacere che ascoltino la radio. Questo mi fa molto piacere. Ovviamente io dico per me, come anche per i miei amici, per noi era l'unica possibilità, perché noi avevamo già deciso che se nulla sarebbe cambiato ce ne saremmo andati via da questo Quindi paese. Vi siete infilati nell'unica perché fessura aperta, avete visto, nella grande impenetrabile muraglia. L'unica speranza. E ovviamente è un atto di fiducia, adesso vedremo, però obiettivamente... Ma adesso l'atto salutare quale sarebbe? Dovrete uccidere il vostro leader, uccidere in senso generale, perché sennò siete schiavi di una figura carismatica. Il carisma è bello, vi è servito a passare dall'altra parte del fiume, ma adesso dovrete creare una vostra autonomia, o sbaglio? Ma certo, adesso le persone che siederanno in Parlamento eserciteranno le loro funzioni, hanno il loro curriculum, la loro esperienza, però ovviamente Beppe Grillo comunque ha un'immagine carismatica. Sì, ma l'immagine carismatica, siamo d'accordo, gli diamo tutti i meriti del mondo. È comunque un leader, va riconosciuto come leader. Ma vivere nel leader, vivere nel culto del leader non fa mai andare avanti. No, ma non credo. Cioè ne fate una religione, questo voglio dirlo molto francamente. Ma io non sono iscritta a movimento, quindi non è che ne faccio, nel senso che non però, sono una testa. Però lo sa perché dico questo? Perché io adesso in campagna elettorale ha parlato solo lui, e lui dire, ha avuto un grande carisma. Ma ha fatto bene. Speriamo che anche le persone che lo seguano riescano a portare avanti queste idee, questa innovazione. Vediamo, mi interessa molto, vorrei se potesse parlare qualcun altro del Movimento 5 Stelle e mi parli del rapporto con il capo carismatico, perché che sia servito indubbiamente Beppe Grillo come capo popolo, come frangiflutti, come massacratore di tutte le resistenze, siamo giusti, ma non credo che si possa continuare a pensare che esista un capo carismatico da cui deve venire in maniera quasi mistica il verbo, se no non si possono esprimere autonomamente. Se queste persone hanno una loro autonomia, rappresentano fette importanti alla società civile, devono avere modo di esprimersi a seconda delle loro categorie di rappresentanza. Edoardo Novelli, cosa ne pensi di questa telefonata e di questo attestato di carisma? Non lo dico con senso di irrisione o ironico, però è chiaro che bisogna anche su questo riflettere. Assolutamente. certamente che abbia avuto questo ruolo, che ha avuto questa capacità di concentrare su di sé l'attenzione. Lui sostanzialmente ha funzionato da ombrello, ha raccolto sotto di sé delle realtà già esistenti in molti casi, delle realtà politiche presenti nelle varie realtà italiane, a livello di enti locali, a livello appunto dalla Valsusa alle lotte per gli inceneritori a Parma in altre, e gli ha dato, diciamo, un brand, come dicono alcuni, comunque gli ha dato un'identità unica, che il blog è servito a questo, a raggruppare vari meetup. È molto vero quello che diceva la persona che ha telefonato adesso. Io ho girato un po' nell'ultima venerdì scorso, mi sono fatto una passeggiata in piazza San Giovanni e sono stato molto colpito. Non guardavo tanto il palco, ma guardavo dietro, mi giravo e guardavo le persone, no? Era estremamente eterogenea, non si poteva fare un discorso di giovani, non giovani, c'erano moltissimi anziani, moltissimi, ma era difficile trovare degli elementi comuni, tanto che non sembrava quasi un popolo, no? Sembrava più una folla per certi versi, no? Non aveva nemmeno tanti simboli di appartenenza, cosa che normalmente se uno va a una manifestazione politica così grande trova degli elementi a livello, c'era qualche bandiera sicuramente di Grillo, ma insomma per il resto non sembrava una popolo accomunato da molti elementi. Vedi però con attenzione, già mi stanno scrivendo, che delusione Nicoletti, sei uno stronzo come tutti, perché quasi vengo accusato di lesa maestà, non si può parlare serenamente di Beppe Grillo senza mettersi in ginocchio. Se vogliamo sganciarci dalla cosa di Beppe Grillo, che noi abbiamo già avuto nel 94 un'altra esperienza, si dice il passaggio dalla prima alla seconda, adesso si dice il passaggio dalla seconda alla terza repubblica, ma Forza Italia che fece un esploit del genere, cioè un partito praticamente nuovo, ancora più nuovo rispetto a quello che è stato il 5 Stelle, che si presentò alle elezioni, divenne il primo partito e vinse le elezioni. Ecco, ma allora diciamo lo strumento importante era la televisione, indubbiamente. Sì, però c'era un altro oggi elemento. È il web. Sì, ma c'era un'altra cosa, era il fatto che nel 94 Forza Italia riempiva un vuoto che si era creato, era spariti una serie di partiti, la DC, il PSI, il famoso pentapartito, era scomparso, le cause se ne può discutere a lungo, ma è sostanzialmente un soggetto esterno al mondo politico veniva e rimpiazzava quel vuoto. La cosa l'esperienza di quest'anno è completamente diversa, perché è un soggetto esterno che però non viene a riempire un vuoto, non è che è crollato uno dei due, il bipolarismo che si voleva costruire, non è che ne è venuto meno uno dei due, anzi è un soggetto esterno che assolutamente si incunea fra quelle che sono le offerte politiche presenti in Italia e si inserisce come protagonista, quindi questo è la grande novità. Non sarà, scusa Novelli, che non c'è più una polarizzazione chiara nelle, fra virgolette, offerte politiche, e non essendoci più destra, la destra non ha più nulla di destra, sì, la sinistra non ha più nulla di sinistra, e sì, quindi... No, è vero, perché poi secondo me le appartenenze forti rimangono, c'è un 30% che continua a votare Berlusconi, è un segno che alcune appartenenze rimangono profonde, e un po' come in certi tempi c'è una fetta, sicuramente meno, Berlusconi ha perso il 17% dei voti, Popolo della Libertà, però c'è una fetta che ancora continua a votarlo e voterà sempre lì a prescindere, e quindi quello è. Ma non sarà invece, Nicoletti, che la politica si è arresa e nel momento in cui un partito, una coalizione che è la più grande maggioranza della storia della Repubblicana Italiana, come era quella del centrodestra, fallisce e non riesce a portare a fine la legislatura, e nel momento in cui di fronte al fallimento di questa, come dovrebbe essere in un normale gioco democratico, l'opposizione non si presenta, lei dice bene andiamo alle elezioni, adesso mi candido io, ma chiamano una figura terza, chiamano i tecnici, che hanno chiamato, la politica si è commissariata, o almeno le due grandi coalizioni politiche in Italia nel novembre di 2 anni fa si sono autocommissariate. Un altro mio punto interrogativo, ne riparliamo evidentemente dopo il traffico, che nessuno ricordi questo fatto, c'era una grande occasione un anno fa, poteva benissimo rifarsi avanti e riproporsi una forza di opposizione, invece si sono tutti lasciati commissariare, come se in quel momento erano bambini che avevano rotto il vaso cinese del salotto e stanno in un angolino zitti e buoni facendosi assegnare la punizione, stando buoni e rinunciando alla merenda. Mi sembra un po' singolare che oggi questo sia stato già dimenticato. Melog, la realtà condivisa. Vi riassumo quello che secondo me deve essere una caratteristica del movimento delle 5 Stelle, dovrebbe lasciarsi dietro, mi rendo conto che c'è una base un po' da educare. politici, giornalisti, voi pseudo-intellettuali non capite che è finito il tempo di sentir parlare, ma del fare. Volete analizzare cosa? Qui ci vogliono fatti, non parole al vento che sono aria fritta. Questo è più bieco qualunquismo, basta, non se ne può più, non chiacchierate, bisogna fare. Alessandro Lanni, laddove hanno potuto fare quelli delle 5 Stelle? Cosa hanno fatto in questo, diciamo, ultimo anno? Sì, una piccola parentesi, il Parlamento si chiama Parlamento proprio perché ci si va a parlare fondamentalmente, certo. Poi con queste parole si fa anche altro, quindi sono entrati in 160 in Parlamento per parlare e convincere anche altri possibilmente, ecco, a fare le cose che propongono il loro programma. Sì, bisogna chiarirlo, però sembra che non è che adesso partono le truppe cammellate e fanno. E fanno, sì, esattamente. E credo che un po' questo che appunto sottolineavi ora è la questione del fare. Ecco, io credo che un grosso fare ci sia stato da parte di Beppe Grillo, in particolare del lavoro di tutti quanti i militanti, è quello di appunto mobilitare una serie di e coagulare una serie di persone, milioni di persone attorno a certe parole chiave che sono parole chiave nuove per certi versi, e quindi questo è stato un fare propositivo. È stato funzionalissimo e non poteva essere fatto altrimenti. Se non ci fosse stato Grillo, oggi non staremmo qui a guardare con curiosità qualcosa di nuovo, diciamoci, certo, chiaramente. Il mio barbiere sotto casa che mi racconta che si è rivolto alle varie sezioni dei partiti tradizionali per far mettere un semaforo in una strada pericolosa sotto casa, e mi dice che gli unici che gli hanno dato retta sono stato il gruppo del quartiere del Movimento 5 Stelle, testimonia secondo me per certi versi un aspetto del modo di fare politica di questo movimento. Ecco, a Parma cosa è accaduto? E in Sicilia cosa è accaduto? Dove bene o male hanno avuto delle responsabilità, delle possibilità di fare? Beh, io credo che appunto il modello siciliano sia esemplare, virtualmente esemplare di quello che può accadere a livello nazionale. Lì, come sappiamo, c'era un voto con circa il 50% dell'astensione, Movimento 5 Stelle, primo partito in regione, eletti, se non sbaglio, 15 deputati all'Assemblea Palazzo Normanni, che dall'opposizione, avendo vinto Crocetta con una coalizione di centrosinistra, hanno garantito su alcuni temi discussi assieme alla maggioranza appunto di Crocetta di centrosinistra una convergenza, un voto di convergenza. Sarà un po' quello che potrebbe accadere a livello nazionale adesso? Potrebbe, sì, vediamo, appunto l'assumersi delle responsabilità, mi sembra lo step successivo adesso di Grillo o dei parlamentari o di entrambi sarà quello di assumersi delle responsabilità, addirittura sedere su qualche poltrona. Ecco, adesso di una cosa possiamo andare veramente contenti. Finalmente abbiamo uno spirito laico, non c'è più questa sorta di inquinamento confessionale, perlomeno nella politica che conta. Almeno questa è l'impressione, anche se Bersani citava i papi come i suoi più illuminati maestri. Però speriamo che anche lui si ricordi che in realtà è stato anche votato perché esprime una parte laica del paese. Non è che poi dal punto di vista dei 5 Stelle sostituiranno quella che era l'immagine di preti, cardinali, arcivescovi, che è un po' debolina in questo momento, con questa sorta di splendore figura ieratica di Beppe Grillo, riusciranno a liberarsi dalla loro religione? Io me lo auguro, lo spero, nel senso che vedo appunto, e per questo un po' ho chiamato il libretto che citavi in precedenza Enigma, alcune tensioni in tutto questo, appunto la figura di Beppe Grillo come uno tra i molti, uno vale uno, no? Nello slogan del movimento, e però al tempo stesso autodefinitosi capo politico del movimento sul suo blog, l'ha detto più volte, insomma. Allora, e quello lo è indubbiamente, però ti ricordi anche come fu per Bossi? Bossi veniva raffigurato con l'armatura bianca, la spada di Alberto da Giussano. Guarda oggi la percezione generale quale è. Poi siamo tutti esseri umani, senza curare a nessuno i tracolli familiari di Umberto Bossi, però forse è meglio mettersi in una posizione meno ieratica, scendere un po' dagli altari. Sì, per questo appunto gli stessi elettori, insomma, dovrebbero capire che in questo modello di politica, di comunicazione della politica, di politica mediatizzata, il catalizzatore funziona, non c'è da imbarazzarsi nel riconoscerlo, appunto. funziona in quanto tale, nel senso ha funzionato in America con Obama, funziona da noi e appunto speriamo che Grillo anche metta in pratica tutto questo, ecco. Enrico, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, Nicoletti. Io la non è proprio il mio campo, però mi cerco di raccontare quelle che sono le impressioni che provo io. Mi tradisce l'accento, telefono da Parma. Come sta andando? Oh, mi racconti Parma, come va? Parma, io mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle per la questione di inceneritore, che dal mio punto di vista è stata una scelta sbagliata e illogica a Parma, e ho cominciato a capire cos'è il Movimento 5 Stelle, mi sono interessato, sono riuscito a toccare con mano Pizzarotti, il sindaco, i vari... Cioè proprio l'ha palpato? Sì, nel senso, vabbè, è un po' metaforico, sono riuscito a parlare... Può esprimere il suo gradimento come vuole verso un sindaco. No, ho sentito in queste persone parlandosi un interesse verso le città che nessuno aveva mai dimostrato. Io quello mi interessa, però lei stesso si definisce, diciamo, militante del Movimento 5 Stelle. Sì, ecco. Sì, sì. Però non lo dica sinceramente, se vuole, se no faccia quello che le pare. Io non rappresento la classe abietta dei giornalisti che devono per forza avere. Io non me ne importa nulla. Quello che dice lei mi sta bene e osservo e poi posso anche giudicare magari. Riuscirete a liberarvi da questa sorta di senso confessionale del capo carismatico? Può essere un po' meno una religione il grillismo e più qualcosa che adesso che ha ottenuto la vittoria si muove in maniera più pragmatica, più laica, che è una bella parola per me. Posso parlare di Parma? Io, Pizzarotti a Parma sta agendo direttamente in prima persona. Non vedo una mano di Grillo, almeno io da fuori non vedo una mano di Grillo che possa manipolare per avere il voto, per cercare, anche perché è stato l'unico comune che ha fatto la manovra, ha fatto il bilancio, che sappiamo tutti qual è la situazione di Parma, devastante. Che è stato lacrime e sangue, nessun altro comune l'ha fatto prima delle elezioni e a Parma ha preso l'8% in più dei voti il Movimento 5 Stelle. Quindi adesso diciamo è corretto dire che andrete verso una normalizzazione nei rapporti con il capo carismatico per essere veramente una forza politica attiva? Sì, guardi, la normalizzazione io non vedo che non c'è nulla da normalizzare, io non vedo nessuna interferenza di Grillo verso Pizzarotti. Ma io parlo di interferenza emotiva, spirituale. No, interferenza anche di direzione, di come gestire il comune, di come si agisce all'interno del comune. Va bene, questo prendo atto di quello che dice lei. Edoardo Novelli. Alla luce proprio di quello che ha detto quest'ultimo ascoltatore, cerchiamo di fare una differenza rispetto a quelli che venivano considerati i capi carismatici del passato. I grandi politici del passato diventavano carismatici quando morivano, venivano ammazzati o in qualche maniera venivano portati sugli altari. Qua per la prima volta abbiamo un capo carismatico vivente sul campo che non fa la forza di tutto un apparato con le grandi televisioni, gli slogan. C'è molta differenza rispetto al carisma berlusconiano da carisma grillesco, chiamiamolo così. Sì, beh, i capi carismatici, quando diciamo appunto venivano celebrati i capi politici degli anni 50, 60, 40, 50, quando morivano, era la morte che insomma li faceva passare da una dimensione alla gloria degli altari, erano tutti santi. Anche perché negli anni 50 e 60 in Italia c'è stato un certo rigetto verso una personalizzazione della politica, esatto, verso una fisicità, verso il corpo, perché ricordavano sia la cultura diciamo social comunista, ma anche la cultura cattolica, ricordavano troppo l'esperienza del fascismo. E quindi ci si è proprio tenuti entrambi queste due grandi aree culturali. E poi c'era la figura diciamo di Stalin ancora vivente negli anni 50, che era l'antitesi totale. Assolutamente, quindi ecco, come la personalizzazione della politica inizia in Italia negli anni 80, soprattutto con Craxi, insomma Craxi, il presidente Pertini stravolge in chiave personalistica la figura del ruolo del Presidente della Repubblica, seguito in questo poi soprattutto anche da Cossiga, ecco, quindi e a quel punto lì diciamo dalla Seconda Repubblica è stata assolutamente... Le presidenze creative, chiamiamole così, ecco. quelle le presidenze creative, e poi la Seconda Repubblica sono i famosi partiti personali, insomma, che in parte già la Lega lo aveva anticipato, poi Berlusconi, poi non dimentichiamoci che abbiamo avuto dal patto Segni a tutti gli altri, ognuno si è poi creato delle liste un po' a propria immagine. Però transeunte, non se li ricorda più nessuno. Sì, poi insomma i nomi dei candidati entrano nei simboli dei partiti, cosa mai successa, è impensabile, era impensabile un simbolo della DC con sottoscritto De Gasperi o anche solo Andreotti, ma anche un simbolo della DC.